Letture di Radio 24. Da quelli che parlano sempre male degli altri a quelli che ti aggrediscono verbalmente. Ogni giorno abbiamo a che fare con persone nocive. Nel suo libro È facile liberarsi dei rompipalle se sai come farlo, lo psicologo Bernardo Stamateas spiega come affrontare queste persone, dedicando a ogni categoria un capitolo specifico. Ecco ad esempio i suoi consigli per quanto riguarda le persone che si lamentano sempre. Se piove, gli dà fastidio. Se esce il sole, non ne parliamo. Se lo saluti con trovoglia, si offende. Se lo saluti in tono gentile, si infastidisce. Il punto è lamentarsi sempre, trovare un motivo per convincersi che il mondo gli è ostile e che nessuno riesce a capirlo. Chi è a favore o ostile a chi? Il lagnoso troverà sempre un motivo per lamentarsi. Nel dubbio è sempre meglio lamentarsi, anche prima di verificare le cose o di fare domande al riguardo. Prima di tutto, il lamento. La lagna è un lamento, un mugugno, un rimprovero, un rammarico. Un brontolio continuo che riesce solo ad allontanarti dalle persone migliori. A chi piacerebbe stare con una persona sempre pronta a spaccare il capello in quattro? Sono molti i collezionisti di lamentele. Dicono, per esempio, «Mi hanno offeso, mi hanno maltrattato». «Chi?» viene loro chiesto. E loro rispondono «Il mio capo, mio cugino, mio zio». E forse hanno anche ragione. Perché magari è vero che sono stati offesi, che hanno subito delle ingiustizie. Quello che non sanno è che a furia di lagnarsi, la soluzione del conflitto si allontana sempre più e loro diventano persone che si piangono addosso. La lagna produce solo insoddisfazione, scontento, risentimento, rammarico. Riflette un'emozione repressa che finisce per far ammalare non soltanto i tuoi pensieri, ma anche il tuo corpo. Molte persone fanno della lagna un'abitudine, una forma di vita. Nell'illusione che se continuano a lamentarsi, il problema sparirà. Credono che con il mugugno prolungato il conflitto si risolverà o che forse un altro essere umano benevolo avrà pietà della loro situazione e risolverà il problema. Sono persone che si lamentano in continuazione, senza rendersi conto che in questo modo si legano ancora di più al passato e alle difficoltà. Rivivono vecchi dolori e si incolpano per non aver saputo approfittare di questa o quella opportunità. Paure, insicurezze, inquietudine, afflizione e dolore sono sentimenti che le persone lagnose conoscono bene, diventando così tossiche per se stesse e per chi gli sta accanto. Qualunque problema non risolto si ripercuoterà sulle persone più vicine. Quando qualcuno ti rifiuta, non prenderla sul personale. Pensa che quella persona quasi certamente è stata rifiutata o offesa prima di te. Così come trattiamo noi stessi, allo stesso modo tratteremo gli altri. Molti guardano dentro se stessi con rabbia e ostilità. Forse è successo anche a te. Magari sei stato maltrattato e manipolato per anni e invece di parlarne subito e guarire le emozioni ferite, oggi ferisci a tua volta chi ti sta più vicino e ti offre una nuova opportunità. L'ostilità è un'emozione che nasce dall'inimicizia, dalla cattiva volontà e che si esprime come cattivo umore, impazienza, lamento. Il 20% della popolazione possiede un livello di ostilità che mette a repentaglio la propria vita. Ogni 10 persone, 2 sono consumate da una rabbia trattenuta, che fa aumentare di 7 volte il rischio di morire di malattie cardiache. Ogni volta che ti lamenterai di qualcosa, chiediti «Perché mi sto lamentando di questo?». Prima di lamentarti, controlla la tua autostima e se ti accorgi che c'è qualcosa che non va, cerca aiuto e cura le tue emozioni. La lagna indica che c'è una ferita che continua a sanguinare. Non ti lagnare. Trattieni il lamento. Pensa che quando ti lagni, ti stai fermando. Se vedi che hai fatto male qualcosa, fallo di nuovo. Se vedi qualcosa per terra, raccoglilo. Non aspettare che lo faccia qualcun altro. Cambia il tuo modo di agire, il tuo modo di parlare, il tuo modo di esprimerti e non ti fermare a lamentarti. Continua, va avanti e non guardarti indietro. Ti manca ancora molta strada da percorrere. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Bernardo Stamateas «È facile liberarsi dai rompipalle se sai come farlo. Come vaccinarsi contro le persone che ci complicano la vita». Corbaccio, 238 pagine, 14,90 €. La sporca guerra, raccontata da Giampaolo Pansa nel suo ultimo libro, è quella combattuta tra partigiani e fascisti nella fase conclusiva del secondo conflitto mondiale.